avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. Oggi andiamo totalmente a braccio, sono fortemente, radicalmente e profondamente minato nel fisico e nella salute, ma sono venuto ugualmente a fare la trasmissione. Il tema di questa mattina, che mi ispirava molto nella giornata di ieri quando ancora mi arrideva la salute, oggi mi sembra tragicamente paradossale. Per oggi parliamo della montagna. Perché volevo parlarne? Perché era una bella giornata e improvvisamente mi era venuta nostalgia della montagna. Non sono mai stato un appassionato della montagna in senso stretto alla parola, perché non sono mai stato appassionato di nulla. Ogni passione, quando poi diventa un mestiere, quando poi diventa un manierismo, mi tartassa fortemente l'immaginario. Però ricordo che da ragazzo, un po' perché le mie frequentazioni in terra umbra, un po' perché l'avevo abbastanza a disposizione, un po' perché non eravamo assolutamente marini né di predisposizione né di collocazione geografica, andavamo spesso in montagna, la conoscevamo, passavamo giornate in montagna, l'escamotage di passare un giorno in montagna, montagnole, quello che di cui ci potevamo accontentare, non erano mai grandi montagne. Le grandi montagne erano quelle destinate alle vacanze, in cui si andava nei momenti di vacanza. Beh, la montagna ci si presentava sempre come qualcosa di misterioso, di ineffabile, qualcosa da conquistare, qualcosa che trascendeva completamente dal nostro piatto quotidiano. Andare in montagna significava comunque compiere, anche se fisicamente, materialmente, ma allo stesso tempo metaforicamente, un cammino di ascesi, salire il più possibile laddove la conformazione del terreno permettesse la massima salita. Andare in montagna oggi significa tutt'altra cosa, perlomeno nella comune lettura popolare vacanziera. Andare in montagna significa attrezzarsi in maniera fantastica e andare a compiere uno sport, un'attività che richiede impegno, richiede fatica, ma un'attività che ultimamente alle nostre latitudini sta mietendo sempre più vittime. Questa è la cosa su cui volevo interrogarmi questa mattina. Come mai quello che dovrebbe essere un simpatico, divertente, suggestivo passatempo è diventato un luogo di profondo rischio di vite? Come mai in Italia improvvisamente la passione per la montagna si sta trasformando in una catena molto disastrosa e molto preoccupante di vittime? Come mai gli italiani, quando vanno in montagna, non si sentono di dover prendere le giuste e necessarie precauzioni, non si addestrano, non seguono quelli che sono i percorsi della normale prudenza, e perché rimangono molte volte stecchiti nelle montagne? Quello che ci diamo questa mattina, ci rivolgiamo soprattutto a quelli che per loro collocazione geografica si trovano già in zona di montagna, per cui la montagna è qualcosa di familiare, di vicino, qualcosa che non è per nulla ostile, quelli che comunque amano definirsi praticanti di sport alpini e quindi vanno in montagna e hanno tutte le necessarie cognizioni, attrezzature e tecnicismi per poter affrontare la montagna. Iniziamo subito con quello che è il, come si dice nel gergo giornalistico, il tragico bilancio dell'approccio probabilmente sbagliato e superficiale degli italiani con la montagna. Con molta probabilità i due alpinisti sono stati sorpresi dal distacco di un blocco di roccia proprio nel tratto della parete dove stavano passando in quel momento. Non c'è stato nulla da fare, sono precipitati nel vuoto. L'uomo si trovava da solo in quota, fra neve e ghiaccio. Un volo di oltre 400 metri sulla vedretta nord, conosciuta anche con il nome di scivolo Brenta, in Trentino Alto Adige. Lo hanno trovato nella parte alta del canalone sulla conca del Pra, Alta Val di Pelice. Il corpo di Federico Negri, torinese di 42 anni, era sotto la neve a 2000 metri di fondo. Sono soltanto alcuni episodi, poi sono evidentemente quegli episodi di cronaca che appunto descrive, narra eventi tragici che vanno meno sott'occhio. Perché? Perché non si fanno mai salottini televisivi sui morti in montagna, si fanno piuttosto su morti ammazzati. Preparatevi a lunghe dissertazioni nei salotti televisivi della donna trovata tagliata a pezzi con la motosega. Questi sono i morti su cui veramente l'opinione pubblica si sente di doversi interrogare, di doversi emotivamente essere trasportata. I morti in montagna fanno parte di tanti incidenti, come gli incidenti d'auto, ma probabilmente, evidentemente, c'è una fattispecie più profonda, perché tanta gente in preda probabilmente a una passione, a un'euforia, a un desiderio comunque di andare oltre i limiti imposti dalle proprie appunto limitatezze fisiche, rischia così tanto la vita. O probabilmente si pensa, si immagina e si suppone che sia facile andare in montagna, che affrontare la montagna sia proprio una passeggiata, che in fondo occorra semplicemente prendersi qualche manuale o semplicemente seguire qualche corso per corrispondenza di arrampicata. Una cosa interessante è prendere una persona e provare a farla camminare molto lentamente. Questo provoca come effetto che diciamo, viene meno quell'aspetto istintivo della camminata che una persona ha acquisito negli anni ed è costretta a concentrarsi sul movimento. Se voi ci fate caso, se provate a chiedere a una persona di camminare diciamo a velocità normale, poi gli chiedete di fermarsi e riprendere molto lentamente, la prima cosa che fa è guardare per terra, che è una cosa che voi camminando non fate mai, perché a quel punto una persona deve concentrarsi su quello che fa. Queste erano delle lezioni che abbiamo preso in internet, come camminare in montagna, sì, perché diciamo la frequentazione della montagna può avvenire attraverso varie fattispecie, si può arrampicare, si possono fare delle scale, si può semplicemente fare delle belle passeggiate con livelli di difficoltà a seconda delle proprie esigenze, delle proprie capacità. 800240024 è il nostro numero. Qual è il vostro rapporto con la montagna? Avete mai avuto situazioni rischiose? Situazioni in cui vi sentivate ai limiti circostanza che poteva essere per voi tragica, o perlomeno come affrontate la montagna, andate in montagna, avete una passione profonda per la montagna, o la montagna per voi è qualcosa di estremamente lontano, alieno da ogni vostro desiderio? Questa è la domanda questa mattina. A voi come soccorso alpino è capitato di trovare anche delle cose strane negli zaini dei turisti, no? Assolutamente sì, abbiamo trovato oggetti che col buon senso non hanno nulla a che fare. Per esempio? Il phon non serve in montagna, il ferro da stiro non serve in montagna, non servono tutti quegli oggetti che si usano abitualmente in casa, servono delle attrezzature, servono delle risorse da utilizzare in montagna. Queste sono diciamo gli oggetti che tu consiglieresti per fare un'escursione di un paio di giorni? Sì, in linea di massima qui dovremmo avere un po' tutto, a cominciare da quello che è l'abbigliamento, ovvero giacca a vento, maglia di ricambio, una mantellina antipioggia, un berretto, dei guanti, anche perché pur essendo estate possiamo trovarci in situazioni spiacevoli dove un minimo di abbigliamento comunque non guasta, anzi sicuramente va bene. Tu suggerisci di vestirsi a cipolla e di non usare cotone? Ma vestirsi a cipolla favorisce ovviamente poter mettere e togliere... Questa è un'intervista a un responsabile del soccorso alpino, però non si può fare a meno di sorridere sul fatto che negli zaini di molti escursionisti abbia trovato un phon, un ferro da stiro. Potrei forse capire il phon, ma il ferro da stiro che è pesantissimo, portarlo sulle spalle, uno zaino lascia segni profondi delle nostre tenere spallucce, portarci anche il ferro da stiro mi sembra esagerato. Stefano Ardito, buongiorno. Buongiorno. Stefano Ardito è un giornalista, un documentarista, è una vera istituzione nel campo della saggistica sulla montagna. Ha scritto moltissimi libri, guide su sentieri di montagna, sul veroccioso, sui percorsi, insomma uno che se ne intende. Hai anche tu l'impressione che in realtà ci sia un approccio troppo superficiale con la montagna, che venga considerato poco più che fare una passeggiata in un parco, e per questo molte volte l'esito è spesso tragico? Ma io credo in realtà, certamente poi i casi caricaturali esistono, no? immagino il ferro da stiro, ma se ne potrebbero trovare decine di altri. Ne conosci anche te di simili? Assolutamente sì, però io credo che invece l'attenzione, e ragiono da giornalista ma anche da praticante, quindi magari faccio il discorso al contrario, perché è chiaro che da giornalista uno andrebbe a cercare il caso eclatante, no? Di quello che si porta a chissà che cosa di assurdo. Però la realtà è che in Italia esistono tantissimi praticanti della montagna, tra l'altro nessuno li ha mai contati, ma probabilmente sono tra 500.000 e un milione. Poi sono le persone più o meno già per, abitano in zone in cui la montagna è vicina, è prossima, è frequentabile. Ma io non credo, perché oramai la passione per la montagna intesa come sport di montagna e lasciando perdere lo sci di pista, che è un'altra cosa, sì, è in realtà radicata soprattutto in pianura, è radicata soprattutto in città. Poi esistono eccellenti alpinisti valligiani e molti valligiani che conoscono perfettamente la montagna, però la grossa quantità, la grandissima maggioranza dei praticanti della montagna italiani viene dalle città, e la grande maggioranza dei praticanti della montagna lo fa con serietà e con sicurezza. Esiste una enorme offerta di sicurezza in Italia per quello che riguarda la montagna. Pensiamo che il Club Alpino, che ha 300.000 soci, fa centinaia e centinaia di corsi a vari livelli, di escursionismo evoluto, di alpinismo, di sci alpinismo, eccetera, eccetera. Esistono altre associazioni serie, esistono centinaia di guide alpine che, oltre a portare i clienti sulle salite, fanno corsi e fanno attività didattica. Quindi in realtà il fatto che poi ci siano, non lo so, 200-300 morti all'anno in montagna, e ovviamente bisognerebbe, come in tutte le situazioni di pericolo, tendere a zero, ogni singolo incidente è troppo, ogni singola vittima è troppo, sia chiaro, però se uno lo guarda statisticamente, l'immagine della montagna assassina è fasulla. Montagna assassina no, ma probabilmente non sarebbe male dare qualche indicazione, o perlomeno cercare di definire quali possono essere le ragioni principali di questi incidenti. Tu hai citato alcuni percorsi obbligati per chi voglia frequentare la montagna, o perlomeno consigliabili, ma per la tua esperienza, per quello che tu hai visto e conosciuto e sai, quando accade qualcosa che non dovrebbe accadere, perché le persone si muovono in maniera autonoma, senza preparazione, senza seguire appunto queste tappe necessarie per affrontare la montagna in sicurezza? In buona parte sì, poi è chiaro che su alcuni terreni l'incidente, la frana, la valanga in luoghi che non sembravano pericolosi può anche uccidere il migliore e il più esperto degli alpinisti, ma sono casi rari. La maggioranza delle persone che vittime di incidenti, e lo dicono le statistiche del soccorso alpino, non lo dico io, più della metà degli interventi del soccorso alpino si svolge su sentieri facili o elementari, alla ricerca di persone che cercano funghi, di villeggianti andati a fare la passeggiatina o cose di questo genere. Quindi non sono veri e propri praticanti della montagna, sono gente che si avventura in montagna per motivi tranquilli, come farsi una passeggiata, e poi si perde, va a finire in zone che non riesce a affrontare, non riesce comunque a superare. Faccio un esempio, siamo d'inverno, siamo quasi alla fine dell'inverno, no? Alcune delle situazioni più pericolose sono proprio le situazioni che io chiamerei di confine, cioè si parte per un sentiero nel bosco che dal basso sembra tutto perfetto e pulito, si gira un angolo al freddo e si trova un lastrone di ghiaccio. Una persona esperta che sa che in montagna d'inverno è sempre bene avere i ramponi, se li lega agli scarponi e passa senza nessun problema. Idem a primavera avanzata, sentieri facili tagliati ancora da canaloni ripidi, sull'Appennino una larga fetta degli incidenti, sull'Appennino, sulle Prealpi, sulle montagne teoricamente facili se non banali, gran parte degli incidenti mortali succedono tra maggio e giugno e tra ottobre e novembre, appunto queste stagioni intermedie nelle quali magari anche un escursionista senza preparazione, senza materiale tecnico, pensa di poter andare a fare una gita che ad agosto non avrebbe nessun problema. Ecco, allora abbiamo già definito un po' le aree e i periodi dell'anno più rischiosi. Sentiamo qualche ascoltatore. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io parlo dalla parte, insomma, come il collega che stava intervenendo in questo momento, che mi sono perso il nome. Stefano Arbito, è un giornalista e un documentarista, esperto in montagna. Io sono, lavoro per il soccorso aereo dell'aeronautica. Non ho statistiche, ma in che zona lavora lei? In che area lavora? Nel nord Italia, quindi sulle Alpi praticamente. Guardi, senza interpellare statistiche che non ho dati alla mano, però ci siamo accorti negli anni che al di là dei fattori che avete analizzato fino a questo momento, purtroppo oserei dire spesso c'è la mancanza proprio di disciplina, nel senso non c'è l'ignoranza o la non conoscenza del pericolo. Spesso persone sono andate a cercare zone in cui magari non trovano nessun altro, quindi inesplorate tra virgolette, consapevoli che la zona fosse a rischio. Ci fa qualche esempio per capire il provocare una valanga da parte di un sciatore di sci d'alpinismo è molto comune. Il taglio di una lastra che il giornalista stava analizzando prima delle stagioni è facilissimo che accada mentre qualcuno pratichi sci d'alpinismo, taglia la lastra e provoca una valanga. E purtroppo accadono spesso queste cose, ma dall'altra parte si accorge che comunque c'è la consapevolezza che la zona è a rischio. Io parlo di fuoripista ovviamente, non parlo dei casi in cui non sono preventivabili, tipo il distacco di un pezzo di parete, quello purtroppo è la natura, è la montagna che è fatta così. Però spesso ci siamo accorti che ci sono persone che fondamentalmente sapevano che andavano in una zona pericolosa, e ora oggi come oggi, tra l'altro con il soccorso alpino, con internet, fa specie perché i warning riguardo alle stagioni, ai periodi in cui non andare in montagna e le zone da non praticare sono comunissime. Quindi lei più o meno concorda sulla mia ipotesi che viene affrontata con leggerezza la montagna, non si valuta che la montagna fa parte proprio del suo fascino, l'imprevedibilità, la mutazione continua e l'aspetto che può tradire molte volte se uno non la conosce molto bene. Ma spesso non è neanche tanto legato all'ignoranza del pericolo. Spesso ci siamo trovati di fronte a persone che erano a conoscenza che la zona era a rischio, eppure, vabbè, quello è la... non lo so, è l'adrenalina che attiva qualsiasi persona faccia degli sport tra virgolette estremi, non solo estremi, però il fatto di trovarsi da soli in zone in cui praticamente solo noi stiamo frequentando non so, al suo fascino. A volte però c'è la motivazione che probabilmente non dovremmo essere lì. Quindi c'è una ricerca, diciamo, di sensazione forte, estrema, lecitissima. Beh, la montagna la dà, sì. Già l'imponenza, la sua però senza la necessaria attrezzatura. La ringrazio, sentiamo Gianmaria. Gianmaria, buongiorno. Buongiorno. Dunque io ho avuto delle esperienze quando ero giovane, oggi non lo sono mica tanto, anche abbastanza... di grado elevato con la montagna, e ricordo che l'approccio è sempre stato impegnativo, ovvero già cominciando dall'avvicinamento al punto dove si comincia la scalata o a salire, bisognava portare lo zaino, bisognava camminare tanto, eccetera. I materiali erano un po' approssimativi, ricordo le prime corde di canapa pesantissime, quando erano bagnate poi nello zaino non le dico. Sta parlando di tanti anni fa, sto parlando di per esempio 40 anni fa, sì. Da allora in avanti c'è stata una grossa evoluzione nei materiali che ha reso più l'approccio semplificato, insomma. Cioè sembra più facile perché oggi sono tutte belle, colorate, le attrezzature per la montagna. È più affascinante pure quello, sì. Questo fa sì che la gente, seppur anche preparata, poi ci sono anche gli outsider che credono sia facile perché ha sentito dire, ma anche la gente preparata abbia questo approccio corto che le permette diciamo sdogana il fatto che si possa rischiare di più. E questo Stefano Ardito su questo. Questo ascoltatore dice che c'è un materiale che talmente fantastico, avveniristico e bello anche a vedere che le persone si sentono molto protette dall'efficienza dei materiali, non valutando che poi bisogna anche saperne l'uso corretto. Ma sì, certamente, però le statistiche dicono che i materiali moderni, i materiali sia pure colorati, belli, ma anche, come dire, performanti, funzionali, salvano molte vite. Oggi gli alpini, diciamo, c'è un paragone storico se vuoi, negli anni 30, finché si usavano le giacche di velluto a coste, le giacche di tweed e le corde di canapa, i migliori alpinisti su delle Alpi morivano quasi tutti in montagna. Adesso questa cosa non è più vera, ci sono degli incidenti, ma gran parte dei migliori alpinisti continua fino all'età avanzata tranquillamente la sua attività. Questo problema si è spostato in Himalaya, dove entrano in gioco altri fattori: la mancanza di ossigeno, la mancanza di lucidità, l'impossibilità di organizzare dei soccorsi efficienti. Io credo, per quello che riguarda il materiale, che a volte poi a indurre in tentazione a fare cose che non si dovrebbero fare sono cose più semplici, magari il telefono cellulare. Io varie volte ho sentito dire a escursionisti, a villeggianti in montagna che andavano a fare una gita al di sopra delle loro possibilità, ma tanto il telefonino, poi chiamo l'elicottero. Non valutando che molte volte il telefonino non prende in montagna. Sono sì, e comunque se uno è cascato in fondo a un burrone c'è poco da telefonare, insomma. Va bene, ci sentiamo tra un istante perché devo dare la linea alle informazioni della borsa con Stefano Ardito e con i nostri ascoltatori sulla montagna. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Anche la montagna, dove è sacra? Che non mi vengano a dire gli alpinisti che vanno in montagna per il sacro, vanno su, arriva prima la telecamera di loro. E qui ci avete un esempio di uno che si è venduto l'immagine per... E allora non spacciamo le imprese per cose dell'anima, per moti dell'anima. Se tu vai a scalare, ballo, ma sta zitto. Non ce ne frega nessuno se tu hai fatto i 14.800, li hai fatti per te. Il mondo deve sapere, ma perché deve sapere? Allora dimmi anche quante volte ti scopi la morosa, deve saperlo anche quello. Cioè, esibizionismo, che non va male. Però oggi, mancando quella sacralità di un tempo, questo esibizionismo dilaga. C'è un bellissimo libro che vi consiglio, di Jean Giono, Lettera ai contadini sulla povertà e la pace. Attualissimo. Sì. Questo è Mauro Corona, ne parlammo qualche settimana fa a proposito dei miti pop, è diventato una sorta di icona del bel tempo che fu nel rapporto tra uomo e montagna, e su questo ha un grande successo, scrive libri, va in giro, parla, si fa vedere, è sempre vestito da montagna, sempre vestito da alpinista, anche l'estate se lo vedi a un caffè, lo vedi in giro, è sempre vestito da montagna, perché rappresenta il simbolo vivente del giusto, corretto e sacrale rapporto con la montagna. Abbiamo in questa mattinata, in cui parliamo del rapporto fra uomo e montagna, dell'uomo moderno e montagna, dell'uomo moderno civilizzato e metropolitano italiano e la montagna, ci eravamo posti la domanda se ci fosse una leggerezza nell'affrontare la montagna, visto che spesso si parla di incidenti. L'ospite che abbiamo in studio ci ha riportato in termini meno drammatici questo rapporto, dicendo che in fondo statisticamente non è che la montagna uccida più di quanto siano rischiose altre situazioni, ma in realtà forse qualche attenzione e qualche consiglio vale la pena di darlo. Abbiamo in studio Stefano Ardito, che è un giornalista, documentarista, esperto in montagna, ha scritto tantissimi libri sulla montagna, ne ricordo soltanto gli ultimi due pubblicati dalla ITER, che sono I rifugi delle Dolomiti, Veneto e Friuli, e I rifugi dell'Appennino centrale, quindi delle guide per affrontare con cognizione e con regole precise la montagna. Stefano Ardito, una battuta su Corona, su questa. Mauro Corona rappresenta l'antitesi dell'alpinista la domenica, colui che con la montagna ormai ha un rapporto talmente radicato e viscerale da essere icona vivente perenne dell'uomo montanaro. Sì, voglio dire, hai già detto tutto tu, nel senso che poi Mauro Corona è sicuramente un montanaro, è sicuramente una guida alpina, è una guida alpina, è una persona che vive in montagna, che è nato in montagna e che poi ha avuto anche successo, grande successo, raccontando la sua vita. Che dire, insomma, è un caso, va benissimo, non credo che poi c'entri molto con un discorso sulla sicurezza e con un discorso... No, però diciamo, è qualcosa che alimenta e fortifica il brand della montagna, diciamo. Corona è un mito per tante persone, molti leggono i suoi libri, quindi sentono poi spinti a seguire, non dico le sue tracce, o perlomeno di seguire l'attività alpinistica come un'attività di cui si parla, di cui comunque penso che negli ultimi tempi sia molto più in voga, sia diventato più di moda andare in montagna di quanto lo fosse magari 10-20 anni fa, probabilmente. Beh, io credo che fin dagli anni tra le due guerre, in realtà andare in montagna, andare a camminare, andare ad arrampicare, soprattutto per chi viveva a poca distanza dalle Alpi, è diventato un passatempo fondamentale. Già negli anni 30, già quando ci si è potuti cominciare a muovere, adesso magari la cosa è diventata più facile anche per chi abita a Roma piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Francoforte. D'altronde io credo che noi viviamo in una società urbana, in una società che ci porta a stare chiusi, reggimentati, e il fatto di potersene andare in uno spazio di natura per molti di noi, non tutti, ma per molti di noi è una grande cosa che rende bella la vita, che permette di andare avanti, le emozioni. Beh, dà un grande senso di euforia e di liberazione andare in montagna, questo è indubbio. L'affrontare la montagna, il vedere il mondo dall'alto, il vedere una cima e cercare di arrivare poi a conquistarla, è qualcosa che dà un grande senso di euforia, una grande scarica di adrenalina, come diceva prima il nostro ascoltatore. Però io credo anche il problema vero è ricordarsi che appena uno ha fatto 30 passi dalla macchina, dalla funivia, le regole non sono più quelle della vita cittadina, ma tutto, anche se ci sono i sentieri segnati, anche se c'è il soccorso alpino efficiente, anche se ci sono i materiali belli, colorati e sicuri, le regole non sono più quelle della vita urbana, ma sono quelle della natura. Ma d'altronde se passo una spiaggia affollatissima, si allontana 50 metri, fa qualche bracciata, comunque le regole sono quelle del mare, non sono quelle della spiaggia con le discoteche. Diventa un'altra cosa e bisogna conoscere quell'ambiente. Sentiamo Marilisa. Marilisa, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono bellunese, cadorina, quindi abito in montagna, sono nata in montagna, sono cresciuta qui. Ho la fortuna di aver avuto un padre che fin da piccoli ci ha portato in montagna con ogni tempo, in ogni ora del giorno, e che ci ha insegnato la quotidianità della montagna. Cioè, beh, non solo lei come Heidi, le sorridono i monti, grazie. Sì, mi chiamavano Heidi quando andavo all'università a Venezia, vero? Ma per quanto... cioè, normalmente i turisti conoscono la montagna da cartolina, il sole, il cielo azzurro, e quando banalmente o piove o nevica oppure si fa sera, diventa un mondo assolutamente sconosciuto. Beh, voi montanari, diciamo, di stirpe, di natura e di nascita, è chiaro che guardate noi poveri, miseri, parvenu di pianura come dei poveretti, delle persone che indegnamente... Ma non è esattamente così, perché guardi, cioè io ho cercato di fare con i miei figli la stessa cosa che aveva fatto mio padre con me, e anche con i bambini che avevo come capo scout, e mi sono accorta che anche i bambini di montagna il più delle volte sono come i bambini di città, non conoscono più la natura, non la conoscono più perché non hanno se più si interrompe, si interrompe il flusso di tradizione orale. Sì, esatto, è chiaro, non solo di tradizione orale e di tradizione di accompagnamento. Sì, sì. Perché con un bambino bisogna andarci insieme. Però se io porto un bambino in montagna anche sotto la pioggia e poi arrivo in un posto dove lo posso scaldare e cambiare d'abito, quello impara che si può andare anche sotto la pioggia. Se gli insegno che deve mettere le scarpe giuste, dove deve mettere i piedi, dove banalmente come deve fare se restiamo fuori di notte a dover dormire, cosa dobbiamo fare, questo bambino lo può imparare, che sia un bambino di montagna o che sia un bambino di città. Sì, però è vero, lei ha ragione, molte volte mancano le occasioni. Mi ha fatto venire in mente cose che mi sarebbe molto piaciuto trasmettere ai miei figli, ma spesso non se ne ha modo, non se ne ha tempo, o bisognerebbe forzare un po' quelle che sono le ritualità quotidiane, anche delle vacanze, portare i figli a dormire fuori la notte in montagna, figuriamoci, si rischierebbe un intervento del telefono azzurro se uno prova a dirlo, capito? Però mi ha fatto riflettere molto quello che ha detto lei. Renato, buongiorno. Buongiorno. Io sono contento che abbiate lì un alpinista come Stefano Ardito, e lui sa di cosa sto parlando. A me è capitato 3 anni fa da arrivare in vetta alla Pizboe. Noi eravamo in 6 e salivamo dalla ferrata del Vallon e dalla cresta della Strenta. Quando siamo arrivati in vetta ha preso il cielo. Può abbassare la radio per favore, sento un po' di eco, grazie. Sì, abbiamo trovato su circa un centinaio di ragazzini del massimo 10 anni con le scarpettine da ginnastica, e i sandaletti, accompagnati da dovevano essere sacerdoti e i genitori. A 3.000 metri? A 3.150, sì, guardi che io lì, in quella zona lì, ci ho già preso un fulmine qualche anno fa, e di zainetti non avevano niente. Mi sono permesso di fare un'osservazione a una mamma che aveva un paio di sandali nello scendere che adesso scendere verso per andare per la funivia Sassportoi, che come dico Stefano Ardito saprà cosa intendo. Lì hanno messo un casino di ferramenta di modo che lì ci salgono tutti, però con la differenza che se lì cambia il tempo si rischia veramente grosso. Cioè grazie alla ferrata si sale anche con i sandali volendo, ma è pericolosissimo, questo vorrebbe dire lei? Assolutamente no, con i sandali, ovvero ci sono dei sandali per gli alpinisti, sono quei sandali famosi che si vede nei negozi eccetera, che io non porto mai. E poi un'altra cosa volevo dire al signor Ardito, io sono frequentatore delle Dolomiti, non parliamo della Tridentina. La Tridentina è una cosa allucinante perché si vede di tutto e di più, e ci sono delle processioni di centinaia di persone. Allora Renato, ci fermiamo un attimo a dare la linea alle informazioni del traffico, poi Stefano Ardito tra un minuto le risponderà e ci farà capire ancora meglio qual è il problema. Mi sembra aver capito, lei ci individua, è l'assalto di folle di inadeguati e incompetenti delle montagne, le gite dei preti con le mamme, con i bambini e tutti, che rischiano anche molto, in realtà creano anche dei danni al territorio, penso questo volesse dire. Ci sentiamo tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt d'état. Ci eravamo lasciati un istante fa con un ascoltatore che denunciava assalti di truppe cammellate delle montagne. Vediamo se altri due ascoltatori danno altre materie perché possa poi il nostro ospite rispondere. Fulvio, buongiorno. Abbassi la radio. Io non sono un vero e proprio alpinista, però sono uno che ama moltissimo la montagna e la amo per tante ragioni, anche proprio legate, come ricordava anche lei, all'infanzia, nel senso che noi abbiamo questa casa a 1800 metri, vecchia del 1600, pietra su pietra, e noi siamo sempre andati in vacanza, e anche adesso che so, io giro tutto il mondo, ma io almeno 15 giorni lì devo farli. E voglio portare il ricordo di mio nonno. Che mio nonno mi diceva sempre: la montagna tu devi, è pietra, ti sembra pietra, ma tu devi pensarla come una persona viva, come una cosa, la devi rispettare, la devi amare, devi essere attento anche se sono delle pietre. Quindi ricordati che la montagna richiede proprio questo, anche nella passeggiata, questo amore, questa passione, perché in realtà non vuole farti del male, ma può essere, cambiano le cose, devi sempre stare attento e trattarla e amarla, e se tu ami vedrai che la montagna ti rispetta. Ovviamente dietro a queste cose c'era tutto una filosofia, un ragionamento, però mi ha dato questo amore per la montagna, che anche tutti noi in famiglia, siamo famiglia numerosa, parenti, figli, nipoti, eccetera, tutti 15 giorni in montagna in quella casa lì, che prima, adesso hanno un po' ristrutturata, c'è il bagno, prima avevi tu il bagno sul torrente, era proprio fuori, ma per noi ha sempre rappresentato un momento di una casa che abbiamo chiamato di libertà. Il bagno di amore, sul torrente come rapporto. Funziona? Praticamente è un appiglio per le mani e uno va sul torrente. No, il bagno sul torrente come funziona? Funzionava, erano due assi, uno gabbiotto, due assi, un posto, un ramo per tenersi. Ah, ecco, un appiglio, sì. Un torrente, poi l'ho chiamato torrente, ma era un canalino, diciamo, della cosa. Però era qua, adesso invece abbiamo ristrutturato, con i nipoti che non volevano, noi abbiamo fatto una via di mezzo, abbiamo tenuto una o due camere in cui uno se poteva, poi abbiamo fatto una camerata dove che potesse ancora stare tutti insieme, uno o due. Sì, è interessante perché dal senso comunque anche di un cambiamento abbastanza radicale di vita, di esistenza, andare a stare in montagna un periodo significa comunque mutare anche le proprie abitudini in maniera anche abbastanza incisiva. Matteo, buongiorno. Sì, Matteo. Buongiorno, sono Matteo, sono dalla provincia di Treviso e sono uno sci alpinista di buon livello, devo dire. E non siamo staccavalanghe, come si può dire molto molto spesso, a noi piace andare in montagna come a chi, come a quelle persone a cui piace fare il trekking o le ferrate o qualsiasi altra attività. Sto notando in questi anni che sono soprattutto le strutture, diciamo gli ambiti controllati da dell'alta montagna, che sta rovinando veramente la montagna, nel senso che non posso permettermi di portare su delle persone a 3-4 mila metri in scarpe da ginnastica e pretendere che rispettino le regole del tempo che cambia, della nevicata improvvisa, della nebbia. Ecco, questa è la mia riflessione. Cioè, quello che apparente aggiunge, conferma quello che diceva prima l'altro nostro ascoltatore, che al di là, diciamo, dei maniaci delle attrezzature, dei materiali, di quelli che comunque devono avere sempre l'ultimo grido nel campo di ogni oggetto utile per affrontare la montagna, sono anche quelli che la prendono con grande superficialità, vanno su in gita con le scarpette come se andassero, non so, a fare una passeggiata in piazza. Sentiamo Stefano Ardito, che ricordo che è giornalista, scrittore e autore di libri dedicati alla montagna. Rispetto a questa ultima sventagliata telefonate, hai qualcosa da aggiungere o da confermare? Beh, diciamo, o da smentire? Sì, assolutamente, grazie. Diciamo, i ricordi della casa a 1800 metri col bagno sul torrente sono un momento di poesia e lasciamoli come stanno. Lo sci alpinista ha perfettamente ragione. Gli sci alpinisti sono persone che fanno un'attività seria, impegnata e rischiosa, e proprio per quello sono tra le persone più attente, più preparate, più attente anche a poi a intervenire in caso di guai. Gli sci alpinisti portano sempre con sé l'ARBA, che è il rilevatore elettronico che permette di ritrovare una persona travolta da una slavina, portano pale, sonde, insomma sono tra i più attenti, e invece spesso le volte che succedono incidenti vengono un po' crocifissi dai media, anche perché molti giornalisti non sanno bene che cosa sia lo sci alpinismo. Invece il primo ascoltatore, mi pare Renato, ha detto una cosa sacrosanta, perché ha parlato di due posti, la vetta del Pizboè, la più elevata del Sella, e la ferrata tridentina, sempre sul Sella, che sono tra i più frequentati delle Alpi, perché sono in mezzo alle Dolomiti, tra Valbadia, Val Gardena, Valle di Fassa. Ci vanno centinaia e centinaia di persone al giorno, e l'affollamento spesso diventa un problema in sé, perché poi se basta una persona inesperta per far cascare sassi in testa a quelli che vengono dietro, vedere una lunga fila di persone fa venire voglia anche a chi non è esperto di andarci dietro. Quindi io credo che poi veramente sia giusto spezzare una lancia a favore dell'andare nei mille luoghi meravigliosi, ma molto più solitari, che ci sono su tutte le montagne italiane, comprese quelle famose. Ecco, ma in questo caso quale può essere il provvedimento? Se il luogo è frequentatissimo, si può contingentare l'affluenza dei turisti o degli aspiranti alpinisti? Sembra difficile. Io credo che non abbia senso. C'è un'esperienza molto carina che ha fatto il Soccorso Alpino della Lombardia qualche anno fa sulla Grigna. La Grigna è una montagna piccola ma rocciosa, abbastanza impegnativa anche sugli itinerari facili, dove spesso persone non attrezzate vanno a fare come se fossero dei sentieri, delle ferrate o degli itinerari con dei passaggi d'arrampicata. E loro hanno fatto un filtro al posteggio da cui si parte per questi itinerari, senza bloccare fisicamente nessuno. Però dicendo: scusa, ma sai cosa vai a fare? Scusa, fammi vedere cosa ti sei portato nello zaino. Tutto in maniera molto cordiale e molto attenta, molto simpatica. E questa cosa poi ha fatto sì che una serie di persone impreparate rinunciassero, magari per tornarci poi attrezzate bene o avendo ecco, una specie di filtro selettivo delle persone che possono andare senza rischi, e quelle che invece magari è meglio che ripensino la loro attrezzatura, il loro equipaggiamento, e ci tornino magari una seconda volta. Io ringrazio Stefano Ardito, ringrazio Fabrizio Intonti, Valerio Rocchetti e tutti quelli che questa mattina ci hanno dato testimonianza del fatto che ancora qualcuno ha attrezzatura mentale e di esperienza concreta adeguata per affrontare la montagna. A domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.